C'è uno strano titolo in prima pagina sul Corriere della Sera di ieri. Non si tratta esattamente di un titolone, sono solo quattro colonne in taglio centrale. Ma visto che comunque in maggiore evidenza di quelli che annunciano dei fatti importanti, quali la svolta presidenzialista di Berlusconi e l'arresto del maggiordomo del Papa, indica chiaramente quella che per i capintesta di Via Solferino va considerata la notizia del giorno. Ci assicura quel titolo che d'ora in poi sarà premiato al merito a scuola. È pronto, assicura l'occhiello, un piano di governo per i più bravi, che si concretizzerà, come specifica il sommario, in borse di studio, meno tasse e stage nelle aziende. L'idea, a prima vista, sembra piuttosto buona. È meglio, a scuola come altrove, premiare il merito che non la fortuna, l'impudenza o la posizione sociale, per citare tre delle caratteristiche che in quella sede di solito garantiscono i primi posti in classifica. Una scuola democratica è aperta per definizione ai capaci e ai meritevoli ed è giusto che costoro, ove si applichino nello studio e ne conseguino lodevoli risultati, siano appunto premiati. La virtù naturalmente premia se stessa, ma al merito non si disdice qualche incentivo. Ci voleva un governo come l'attuale, un governo composto prevalentemente da professori, per rendersene conto. Qualche perplessità si può presentare semmai in relazione al tipo di premio da proporre a quanti ne sono considerati degni. E la ricompensa migliore, viene fatto da dire, da pensare, dovrebbe essere la buona preparazione che si riceve in cambio dei propri sforzi. Questo significa un impegno a concentrarsi sulla scuola stessa, nel senso di far trovare i meritevoli una struttura all'interno della quale le loro doti abbiano la maggiore possibilità di estrinsecarsi e la loro personalità meglio possa crescere. Non si premia il merito abbandonando l'istituzione scolastica a se stessa, lesinandone gli investimenti, mortificandone i docenti e penalizzando la loro carriera. Una scuola smandrappata sciattona, del tipo più o meno di quella che ci ritroviamo, tende a deprimere più che esaltare le caratteristiche di quanti in un uovo o nell'altro vi sono inseriti. Hanno dunque deciso professor Monti e i suoi degni colleghi un vasto piano di interventi, magari una seria riforma che liberi la scuola pubblica dalla camicia di forza cucita addosso dalle varie Gelmini? Ma che? Hanno stabilito semplicemente che gli studenti che nella scuola, così come oggi, più si distinguono, riceveranno particolari onori e facilitazioni. Ogni scuola media superiore sceglierà il proprio studente dell'anno tra quelli che hanno superato la maturità con il massimo dei voti e costoro avranno un diritto a una borsa aggiuntiva per il primo anno degli studi superiori, tutto qua, e alla riduzione del 30% delle tasse universitarie. Potranno inoltre frequentare delle masterclass estive e avranno il proprio curriculum inserito sul sito del Ministero, a disposizione se tutto andrà bene delle imprese in cerca di brillanti talenti, il che sarà certo una buona cosa, anche se i dati offerti alla valutazione non differiranno molto, tutto sommato, da quelli forniti dalle normali pagelle. Tutto qui? Eh sì, tutto qui. Almeno a giudicare dall'articolo del Corriere, la politica di valorizzazione del merito si ridurrà all'istituzione di una specie di onorificenza per il super primo della classe di ogni istituto. Una sorta di premio secchiadoro da assegnare ai giovanotti che, oltre a ottenere la maturità con il massimo del punteggio, che è già una distinzione non da poco, saranno giudicati per più meritevoli degli altri. Da chi e in base a quali criteri non si dice. Come non si dice quale sarà la funzione nella comunità scolastica di questi supereroi dello studio, che sarà presumibilmente quella di fungere da modello ed oggetto di emulazione, scatenando in ogni istituto una forma di competitività da cui evidentemente il governo si aspetta ogni sorta di vantaggi. Niente di particolarmente esaltante per chi come me non ha mai avuto una particolare simpatia per la figura del primo della classe e si è sempre sforzato nell'attività dell'insegnamento di portare tutti gli alunni al massimo dei risultati, facendoli interagire gli uni con gli altri, impostando un lavoro di classe come una forma di cooperazione. È cooperando tra loro, d'altronde, che gli esseri umani in ogni campo di attività realizzano le proprie mete. La competizione accentuata in questa prospettiva è spesso più dannosa che utile e spinge a utilizzare più energie per devalorizzare gli altri di quante servono per valorizzare se stessi, accentua le tendenze all'individualismo e autoreferenzialità. Il suo quadro di riferimento è quella guerra di tutti contro tutti che tra le varie possibili impostazioni del consorzio umano è certo la più deprimente. D'altronde sono questi i valori che esibisce l'egoismo sociale imperante e sarebbe vano aspettarsi che un governo come questo proponga qualcosa d'altro. Sono dai primi della classe anche loro e dai primi della classe non ci si può aspettare un vero interesse per la crescita degli altri.